Grazie mille e do anche io il mio benvenuto a tutte le persone che sono qua in sala e che hanno trovato la forza per alzarsi il sabato mattina e venire qui, così come anche le persone che ci stanno seguendo in diretta streaming. E vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e che stanno lavorando in questo momento per rendere possibile questo incontro. E un incontro che ha un titolo abbastanza impegnativo perché il focus è quello del linguaggio, della comunicazione, all'interno del quale intrecciare però l'esistenza delle persone, la vita quotidiana e partendo dal presupposto che quando parliamo di parole non si parla soltanto di enunciati, di frasi, ma si parla di atti linguistici che hanno una ricaduta non solo nell'immaginario, non solo a livello simbolico, ma appunto nella nostra quotidianità, nelle nostre scelte, nei nostri diritti e quindi il linguaggio inteso come dispositivo che è connesso a privilegi, a un centro, a una marginalità, al potere, alle relazioni. Il titolo dell'incontro di oggi è appunto Parole, rappresentazioni, normatività ed è un percorso ideale che si snoda dal sessismo linguistico, quindi Alma Sabatini 1987, fino ai giorni nostri e in particolare le polemiche che si infiammano in questi 2 anni intorno alle sperimentazioni linguistiche, quindi avrete sicuramente sentito parlare di Jvas, Rischi-U e di un possibile crollo del sistema linguistico italiano. L'ho presentato in questo modo perché è in questi toni che viene portato alla conoscenza del pubblico, quindi l'incontro di oggi vuole invece fornire una serie di strumenti critici, un ragionamento, delle riflessioni, un confronto aperto per invece dotarsi appunto di una visione più limpida, meno inquinata. E questo è un po' l'augurio che insomma, vorrei rivolgervi, ecco, ad aprire un po' all'ascolto, alla partecipazione, mettendo da parte quelle che possono essere le polemiche per appunto dotarsi di una serie di riflessioni che coinvolgono prospettive diverse ed è per questo sono molto molto emozionata, si sente anche dalla voce, di fare da coordinatrice a questo tavolo così ricco di ospiti e di prospettive. L'idea è quello di fare appunto un percorso che parte dall'intervento di Federico Faloppa che ci parlerà del politicamente corretto, un'espressione che spesso sentiamo associata a un'altra parola, dittatura, e invece va anche qui spiegata e capita questa espressione. E poi sentiremo Ethan Bonali, Vera Gheno, Martina Del Romano in un ideale percorso che ci potrà far avvicinare alla tematica da diverse prospettive. Senza rubare troppo tempo agli interventi,